Dialog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Crede che le persone si possano incontrare nei sogni? Io non escludo mai niente per principio. Mio zio Ashi mi ha fatto promettere che l'avrei portata da lui. Dice che lei l'ha visto già molte volte. Ah, sinceramente non mi sembra. Nemmeno in sogno, sceriffo. Ma con questi preliminari, come potrei non venire? La signora in giallo, chi la guarda più che abbia meno di 70 anni, si ancora va nelle sue ennesime repliche televisive, poi l'estate la rimanderanno in tutte le salse, perché? Perché è un telefilm che piace, perché è una signora âgée che comunque risolve dei casi, quindi dimostra dei casi criminosi, dimostra che ancora è lucida, quindi dà conforto, dà speranza. Fra i tanti peana che vengono alzati contro la cattiva televisione, contro il cattivo esempio, contro quello che non bisognerebbe far vedere ai ragazzi in televisione, ma in questo caso non parliamo di ragazzi, sembrerà paradossale, e questa mattina vorrei sentire i soloni, le vestali della buona televisione, sapere che la signora in giallo ha ispirato un tentato omicidio. È accaduto a Torino, l'avrete letto, perché figuriamoci, il filmato della polizia sta già girando in tutti i siti web, in tutte le televisioni, è abbastanza terrificante. Sono dei nipoti, che nemmeno ragazzini, una donna di 62 anni, un uomo di 32 anni, hanno deciso di far schiattare la nonnina ai 97 anni, perché aveva qualche soldino nascosto sotto il mattone. E per farlo hanno pensato, guardando la signora in giallo, hanno confessato, hanno pensato di eliminarla dandole un po' per giorno del veleno per topi. Con una siringa lo mettevano dentro lo yogurt alla fragola, con i pezzetti di fragola che alla signora piaceva tanto, e si vede nel filmato a polizia la nipote che glielo imbocca pian piano, cucchiaino, la vecchia aveva qualche problemino di lucidità. Però loro un po' per giorno gli danno questo topicida, sperando che la signora potesse andarsene dall'altra parte. Con l'arrivo dell'estate e del grande caldo, la regione alza la soglia di attenzione nei confronti degli anziani. I consigli sono sempre gli stessi: bere molto, evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata e alimentarsi con molta frutta e verdura, senza eccedere invece con cibi grassi o ipercalorici. Per gli anziani il rischio peggiore è rappresentato dalla disidratazione, per cui loro non perdono acqua soprattutto attraverso la traspirazione cutanea, non si accorgono però di essere disidratati, perché il senso della sete nell'età avanzata non si avverte più, per cui vanno in disidratazione e tipicamente questi soggetti diventano allora confusi, incominciano a manifestare. Ecco, questo è un servizio tipo che sentirete da questi giorni in poi a tutti i giornali e telegiornali. È l'effetto del caldo sugli anziani. Figuriamoci, tirano fuori dalle teche nascoste dei sempreverdi buoni, sempre per questa stagione, tutti i servizi, e scomincia. Inizia il grande caldo, l'onda di calore, la bomba di calore, non so come lo chiameranno quest'anno, Nerone, Confucio, Pinco Pallino, comunque arriverà l'ondata di calore, già arrivata. A Roma sembra estate. E nella banalità della confezione quotidiana cominceranno i consigli. Mi raccomando, vestite con abiti leggeri, certo chi è che esce col cappotto spinato di questi giorni. Bevete molta acqua, sto cercando di bere acqua, sto soffocando perché gli acari in questo studio mi danno sempre dei problemi di respirazione. E soprattutto le persone a rischio, quindi anziani e bambini, è bene che nelle ore calde se ne stiano a casa. Cioè, le ore calde sarebbero dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 19, più o meno, quando va bene. E cosa fanno le persone anziane, che sono le più a rischio in questi periodi? Qua comincia. Comincia il bello, comincia la transumanza. Mentre per voi, gagliarde signore e signorine, per voi baldi giovani, l'inizio del caldo significa che bello, si fanno quei lunghi fine settimana al mare, ci si abbronza e ci si veste leggeri, cominciano le notti rapaci, cominciano le giornate brade. No, per gli anziani comincia la terrificante tortura di non sapere dove andare. Se voi parlate bene, avete l'impianto condizionatore in casa, il mio già è a 16 gradi fisso da qualche giorno. Uno entra, che bello, sembra di stare nel frigorifero, guarda fuori dalla finestra le persone squagliate e passa l'estate. Ma entrate in una casa scaldata, arroventata, in cui ci sono soltanto delle tendine alle finestre, ci sono soltanto degli infissi, quelli anni 50, con la tapparella si tira su e giù. Cosa fate tutto il giorno? Uscite. E dove andate? Andate nei luoghi dove si pensa ci sia fresco. Cominciate con i giardinetti, ma anche i giardinetti oggi, il fermentio della cacca del cane da una sorta di camera a gas, quel povero anziano, meglio il topicida, almeno è qualcosa di più umano per sparire. Volete farlo morire di gassazione e di cacca di cane? No, e allora non va più nei giardinetti, dove va? Va negli ipermercati, va nei luoghi dove comunque sia c'è una parvenza di clima accettabile. E in questi luoghi, in questo luogo, cosa fa? Passa il suo tempo. Beh, voi avete percezione di quello che sta accadendo con l'inizio del caldo? Voi avete qualche idea di quelle che saranno le soluzioni, sono le soluzioni di sopravvivenza per questi nostri poveri anziani, per noi poveri anziani, perché ecco, io sono lì, manca pochissimo, che se non scampano alle iniezioni di veleno per topi dei nipoti, hanno comunque da affrontare questa terrificante e spaventosa calura estiva che, siccome le stagioni non sono più le stesse, ci coglie un po' tutti. 800 24 00 24. Danilo Masotti, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo lungamente pensato a questa trasmissione e da giorni avevamo in mente di chiamarti, perché oggi questo sapevamo che fosse l'argomento del giorno. Ricordo, Nilo Masotti è un grande esperto della transumanza dell'umanità in età post-pensione, è l'inventore degli Humare Health, e il suo sito è humarehealth.it, sta ponendo le mani alla stampa di un nuovo romanzo scritto con Davide Pavlidis, Ciccio Nazzi a Chichenizza, non so se si dice così, non so nemmeno cosa voglia dire. No, Chichenizza è una località messicana dove appunto fa un gran caldo. Ah, pensavo che hai letto bolognese, pensa un po'. No, infatti no, Chichenizza, la piramide. Io pensavo che era una parolaccia bolognese, immagino. No, così, perché io cerco di fare sempre cultura e quindi Così uno impara. È una contaminazione. Impara Chichenizza e magari ci va in vacanza. No, luogo dove è caldissimo, come è caldissimo adesso a Bologna, ad esempio, la tropicalizzazione. Ecco, ma perché Ciccio Nazzi, scusa un attimo la digressione, andrebbero in questo luogo caldissimo? Per dimagrire? Questi sono due Ciccio Nazzi di Milano, sono due persone, cioè, diciamo, mediocri, che stanchi della vita milanese, cosa fanno? Fanno i corpi in fuga, ovvero si spostano in Messico, perché è lì sì che ci sono le opportunità. Ah, pensavo che andassero per le biche questioni pelose. Senti una cosa, però se Ciccio Nazzi vanno in luoghi caldissimi, gli anziani, gli Umarell, ma a questo punto parliamo di post-umarellismo, perché Umarell siamo noi, quindi delle persone che ormai rischiano veramente l'iniezione al topicida. In questa stagione esattamente cosa fanno? Ecco, allora, in questa stagione, no, io ti parlo sempre dal mio osservatorio bolognese, che è molto interessante. Beh, Bologna è Disneyland in questi giorni per voi. È la Disneyland in questi giorni, sul serio, perché proprio da ieri hanno chiuso una delle strade principali di Bologna, ma proprio un'arteria molto importante, che si chiama Strada Maggiore. Questa strada sarà chiusa addirittura 6 mesi. Pensa che pacchia. Per 6 mesi sarà... un cantiere aperto per 6 mesi. Sì, un cantiere di 6 mesi, questa strada. Hanno già messo comunque tutte le varie infrastrutture appunto per raccogliere... Le panchine per gli Umarell. Ma scusa, non ci sono i porticati, nel senso possono anche stare sotto i portici, non si prendono l'insolazione se vogliono seguire i lavori. Sì, infatti è proprio una strada, questa strada maggiore, dove c'è anche un portico molto importante, il portico dei Servi, dove gli Umarell si possono mettere, però chiuderanno dei punti dove ci saranno appunto le solite cose di plastica rosse, le bande bianco-rosse, e qui ci saranno gli Umarell. Quindi c'è già molta preoccupazione su eventuali malori, perché questo cantiere, sai, cioè, stanno dicendo che lavora presto fino alla sera. Ma io, senti, vorrei vedere in Italia se fanno dei lavori sotto il sole battente nelle ore di punta. C'è qualcosa sulla tua linea? Chiamami intanto qualche ascoltatore, così recuperiamo Masotti. Antonio, buongiorno. No, qua è tutto in un problema. Improvvisamente abbiamo un problema di radio. Vediamo se riusciamo ad andare avanti, vediamo se arriva un altro ascoltatore. Carmen, ci sei, Carmen? Sì, sono. Ecco, è l'unica con cui posso parlare. Se non risolvo questo problema tecnico, continueremo con te fino alla fine della trasmissione. Andiamo. No. Non c'ho alternativa. Dai Carmen, forza. Allora, tuo punto prima di tutto, d'accordo sul tormentone di cosa fare, perché lo sappiamo benissimo tutti cosa fare. Ma tu fare, sei un'anziana, Carmen? Non li dimostro, ma ho 59 anni. Sei più giovane di me, ma che vuoi dalla vita? Ringrazia. Ma ringrazio. Volevo solo suggerire un altro tormentone, di cui sono fortemente in attesa, anche per la carta costa di Alessandro Milan. Il tormentone delle scarpe, a presente, le scarpe infradito. Allora, il tormentone è... Le scarpe infradito le troverà su qualche giornale prima o poi. Le scarpe infradito si possono mettere in città o è ineducato metterle in città? Secondo me non ci sono leggi che vietino l'infradito, scusa, qualche problema. No, ma il tormentone in città è ineducato metterle in infradito. Dipende che piedi hai, se tu hai il cipollone schifoso dell'alluce valgo, no, non li mettere. No, dei piedi bellissimi. E allora mettiti anche lo smalto, troverai un sacco di maniaci feticisti che ti faranno la bavetta addosso. Che vuoi di più? Ringrazia Dio. Antonio. Sì, eccoci. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Eccolo, è un piacere. Sì, dunque, io sono un anziano, 68, però vorrei dire che tutto ha un prezzo nella vita e forse questa situazione disagiata degli anziani, degli ultra anziani, 80, 90 anni, è proprio colpa del progresso della medicina che ci fa vivere molto, ma molto più a lungo di prima. È colpa dell'urbanizzazione. Se tutta questa ansia di schiattare, Antonio... Non ce l'ha nessuno ce l'ha. Per carità. Allora stai contento che la medicina ti tenga in vita? Però se fa bene da una parte, se va dall'altra. No? Ci vuole un bilanciamento, ci vuole un qualcosa di grossi interventi, massicci. Sì, come hanno fatto i nipoti di Torino, il veleno per topi, qual è il bilanciamento? No, per carità, sto dicendo mica per eliminare, per rendere la vita più confortevole, più agiata per chi è a 90 anni. Oggi si vive fino a 90 anni, ma voglio dire anche di più. E quindi. E lei cosa fa l'estate, Antonio? Cosa fa lei l'estate? Ma io intanto ho una mia particolarità, perché sono sulla sedia a rotelle, sono un paraplegico. Ho avuto un incidente 10 anni fa. Quindi già diciamo ha un problema in più rispetto agli altri. Certo, sì, però io l'ho accettato. Nella vita, se non si accettano le cose, si sta con la testa girata indietro e ci si piange addosso. E quindi bisogna avere un punto d'appoggio. Quello che ti succede è il tuo punto d'appoggio e da lì devi partire. Questo è quello che mi ha insegnato. No, però hai posto un problema in più, perché l'anziano noi diamo per scontato che siano come gli anziani di cui parla simpaticamente Masotti, possono andare a spasso, camminare, ma per gli anziani anche muoversi molte volte è un problema. Tu vai sulla sedia a ruote, ma altri hanno i bastoni, i tutori, camminano male, quindi ancora di più si rimane immobilizzati in una condizione di disagio. Nelle città che abbiamo voluto noi, che ci siamo fatti noi, è questo il problema. Cioè, quello che viene fatto da una parte ha un prezzo dall'altra e non c'è niente gratis. Le città, diciamo, sono fatte per chi tiene in piedi l'efficienza della città, quindi i super mega luoghi di incontro e di acquisto, che sono gli ipermercati, che io amo alla follia, solo come condizione di ripiego, come circostanza non calcolata, sono diventati il rifugio degli anziani. Nessuno ci aveva pensato, perché gli anziani poi non consumano quando vanno lì. È beneficenza, i supermercati sono beneficenza, infatti ne sorgono sempre di più, perché forse il freddo invita anche a comprare qualcosa, perché sennò altrimenti un anziano si imbarazza. Quindi è una circostanza accessoria, nessuno aveva pensato, costruendo le grandi cattedrali del consumismo, che in realtà poi forse qualche residuo consumatore, che magari ha solo pochi spiccioli, ci sarebbe comunque venuto, ma non per niente, solo per quei giardinetti finti con le piante di plastica, con le panchine, con le fontanelle, con il delfino, e magari quei pochi spiccioli se li usa in caramelle. Melog, cronache meridiane. Stamattina diamo un momento di riflessione e di giusta sacrosanta memoria alla parte popolazione più colpita da questa sorta di idea che comunque ogni anno ci coglie, perché è mediaticamente confermata e ribadita, che il caldo improvvisamente colpisca le categorie deboli. Ma poi le categorie deboli colpite vere sono proprio gli anziani, perché i bambini hanno genitori gagliardi che li tengono al fresco più possibile. Arrivata la tipico SMS da Umarell. C'è un vantaggio però, che questa immonda calura pare che la plebaglia urlante notturna che staziona fuori dai locali ne sia parzialmente indebolita, oppure preferisca da lì non uscire, in barba alla maledetta legge circa, fa tanti danni, insomma l'Umarell che dice non si può dormire, stai tutti fuori, fate rumore, fate casino, statevene a casa, la gente per bene va letto presto. Infatti cosa fa la gente per bene? Mia nonna, da anni malata, che ormai vive dai miei, se ne sta davanti alla TV a guardare nell'ordine il Giro d'Italia, il Mondiale, il Tour de France. Ovviamente non le interessa, ma lei tipo statua guarda dal salotto il via vai di nipoti e parenti. Maria, buongiorno. Buongiorno. Sì. E oltre agli anziani che sono sicuramente colpiti dal caldo, però sempre riferito alle scarpe, all'infradito. È un bel problema, sì. Uffici, negli uffici o nei luoghi di lavoro, insomma, così l'infradito non sono sempre permesse, anzi io ricordo che... Cioè c'è un cartello vietato mettere l'infradito? No, no, ma c'era una mia collega che insomma d'estate il caldo in ufficio, doveva rimanere in ufficio, non è un front office per cui lei era lì nel suo angolo tranquilla, ma il titolare fece una riunione apposta per dire no ragazze, mi spiace, l'infradito e i braghini corti in questo ufficio non sono ammessi. I braghini corti, perché andava, metteva anche i pantaloncini? No, non i braghini corti, come si chiamavano? Quelli a ginocchio, insomma. Gli orrendi pinocchietti? Ah, bravissimo. Orrendi. Fanno schifo, quello aveva ragione, è una delle cose più bestiali che abbiano inventato. Le donne col pantalone al ginocchio attillato, sembrano segate a metà, è una cosa bruttissima. In quella ragione. Sull'infradito, non so, cosa intende lei per infradito? Le ciabatte di gomma, quelle lì? No, quelle da piscina, no, chiaramente. No, degli elegantissimi piscina, sandaletti, no. Insomma, graziosi? Forse... Perché no? Voleva gli strass, insomma, un tacco magari anche lì. Ma il tacco non è l'infradito, significa. Allora, se la ciabatta di plastica da piscina, ma posso no, anche capire. No, non veniva, no, non veniva con la ciabatta di plastica, con una scarpa di cuoio infradito. Ma cos'è? Inquieta quella cosa che si infila fra le due dita e dà pensieri lubrichi. Faccia capire qual è il problema dell'infradito. Per me nessun problema, io le metterei anche in dicembre, per cui assolutamente nessuno. Però quel cuno di cuoio fra alluce e secondo dito probabilmente lo inquietava, non capisco qual è il problema. Esatto, probabilmente il mio titolare era infastidito da questa nudità. Vabbè, ha problemi suoi, quello che c'entra, però non può essere una regola in assoluto, secondo me ognuno mette quel che gli pare, rischiando anche di fare una figura da peracottaro, ma quelli sono problemi suoi. Danilo Masotti, non ci fermiamo sull'infradito, ma ritorniamo al nostro problema. La calzatura è importante perché un Umarell, ad esempio, non è neanche una sdaura, che è la femmina dell'Umarell, non metterebbe mai l'infradito. Certo, figuriamoci. Utilizza ciabatte e si protegge i piedi, perché i piedi vanno protetti, anche con delle calze corte, non i fantasmini, ma calze corte, quindi l'Umarell fa questo. Stessa cosa. Ecco, ma la donna, la sdarua cosa mette? Diciamo, le ciabatte quelle con la un pochino elasticizzate, come adesso non so come dire, sono morbidelle, quelle lì tipo ospedale, non lo so, cosa sì, mette? Sì, sì, quelle, oppure sono delle ciabatte. Poi ci sono alcune che, non lo so, magari non sentono tanto il caldo e continuano a tenere una calzatura invernale. Scarpa in cuoio. Utilizzata solamente in casa. Scarpa quindi, in cuoio con sì. Tacco largo. E poi, no, poi l'altra cosa importante, perché siamo andati sul settore fashion, sull'abbigliamento, e quindi c'è l'Umarell, ad esempio, che ne approfitta del caldo comunque per muoversi in bicicletta. E bicicletta li vedo spesso con... Come Renzi, oggi figuriamoci al top. Sì, con camice e sotto la canottiera, perché è importante comunque proteggersi, perché la modernità ha delle grosse insidie. Ad esempio non sono rari i casi di Umarells che si avvicinano troppo a dei frigo, alle aree frigo nei supermercati, negli ipermercati, e poi si ammalano. Lì è la congestione? Lì per lì. La congestione, sì, quindi stanno molto attenti a queste cose, quindi si proteggono. Beh, un problema intestinale immediato dentro un supermercato è imbarazzante anche per l'Umarell, a meno che non abbia sì. Il presidio sanitario sempre nella taschetta del suo giubbotto. Esatto, quindi queste sono, insomma, sono nuove insidie. Andando avanti ancora, visto che siamo in conclusione, esiste un luogo fisico, a parte l'ipermercato, dove l'anziano e non lo chiamiamo soltanto Marel, per me la generazione andata avanti, trova un suo conforto e può passare l'estate senza naturalmente ambire a una vacanza, una villeggiatura, qualcosa che non sta nemmeno nel suo vocabolario. Certo, certo. No, ci sono delle cantine e dei garage che sono dei veri punti di ritrovo, sono proprio tipo delle sale giochi, dove gli Umarels stanno nella cantina che mantiene sempre un clima più... C'è quel buon odore di muffa e di cacca di topo misto, così si ritrova in un sì, habitat. Esatto. Poi la cantina è piena di svaghi, perché puoi mettere dei cartelli per vietare ai giovani di non girare in bicicletta, puoi appunto combattere contro i topi, puoi, non so, dare di bianco, insomma, praticamente... Ma poi c'è tutti i tuoi attrezzi, il bricolage, è l'ora del bricolage. Così, ed è subito autunno. Va bene, molti Umarel addirittura giocano a carte, passano nella cantina dei meravigliosi pomeriggi come se fosse un locale di gran moda. Abbiamo lambito soltanto quello che sarà un problema vero, reale, concreto e atroce per una fetta importante della popolazione. Non pensate lo facciamo soltanto per ridere e per dire facezze. Grazie Masotti, grazie a tutti, a domani.